Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Come stai? Bene, oggi molto meglio. Eccoci qua, buona domenica. Come ogni settimana, due padri che parlano ai padri, che parlano di padri. Insomma, cerchiamo un po' di raccontare anche quella che è la società da occhi particolari, che sono quelli della paternità moderna. Come sempre potete seguirci in radio, ma anche attraverso i social, la nostra pagina ufficiale di Facebook, dove potrete trovare anche tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Radio24.it è il nostro sito, da dove poter poi scaricare il podcast, o ancora via SMS e WhatsApp. Il numero è 349-238-6666. Ecco, abbiamo dato tutte le istruzioni. Il tema di oggi è un tema tosto, quello che vogliamo affrontare. Insomma, vogliamo affrontarlo di petto, perché ci sono cose complicate che ci troviamo a discutere, a parlare, a confrontarci con i nostri figli. E lì il papà cosa deve fare, Matteo? Fare un passo avanti o un passo indietro? Ma guarda, io come ben sai, sulle domande che le mie tre figlie mi hanno rivolto e mi rivolgono, ci ho scritto addirittura il primo libro. Insomma, ecco, per questo posso dirti che, per quella che è la mia esperienza, in realtà non ci sono domande scomode o difficili. Ci sono soprattutto risposte delle quali noi adulti abbiamo paura. È vero. I temi che abbiamo scelto oggi sono un po' un sunto di quegli argomenti che i nostri figli hanno captato, hanno percepito in queste settimane, un po' perché magari se ne è parlato a scuola, tanto perché hanno attraversato lettere, la radio, la TV, i social. Argomenti grandi anche, che però magari appunto hanno scatenato una loro curiosità e ci hanno portato a fare riflessioni in quanto padri. E partiamo proprio da uno di questi argomenti. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Un brano estrapolato dal diario di Anna Frank, che ha aperto il turno infrasettimanale del campionato di calcio in tutti gli stadi. Appunto, si sono lette queste righe, si è parlato tanto di Anna Frank, è stata riraccontata nelle scuole, è stato sfogliato il suo diario, proprio perché sappiamo quello che è successo, no? L'immagine di Anna Frank è usata per offendere in chiave antisemita. Partiamo proprio da qui, partiamo dallo stadio, che è un luogo complicato, è un'arena di emozioni, di passioni, di offese. È un posto che soprattutto i nostri figli, i maschi, vogliono andare, spesso ci vanno accompagnati dal padre. Quindi volevamo entrare in questa arena, in questo campo, e farlo, se c'è, in una chiave educativa. E lo facciamo insieme a Ferdinando Galassi, che è psichiatra, psicoterapeuta, papà e autore del libro Manuale di sopravvivenza per padri imperfetti, edito da Franco Angeli, che ha proprio dedicato un capitolo al perché andare allo stadio insieme ai propri figli. Ciao Ferdinando, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno. Allora, si può andare allo stadio con i propri figli? Ma certamente, o almeno nella famiglia mia, io andavo con mio babbo a 4-5 anni, mi ha portato allo stadio, io ho portato i miei figli, ho due figli maschi, e siamo da sempre a vedere le partite di calcio insieme. E cosa si fa? Cioè, si va allo stadio, si guarda la partita, ma si traducono i cori, si traducono gli striscioni, si contestualizza quello che di becero accade spesso in curva? Allora, io sono d'accordo con quello che dicevate prima, nel senso che è un problema di paure nostre, è un problema di paura di come dire, oppure delle tensioni nostre con i nostri figli, perché i nostri figli possono ascoltare da noi qualsiasi cosa se detta in modo giusto. Quindi andare allo stadio ti porta a momenti di amicizia, fratellanza, gioia e esperienze anche negative, e non bisogna aver paura di portare i nostri figli a provare esperienze negative, perché basta confortarli, ascoltarli, stare lì, cercare di avere delle parole semplici, perché sono magari piccoli, per spiegargli le cose, però spiegandogliele e dandogli affetto, carezzandoli, confortandoli, ascoltandoli, riesci a trasmettergli certi messaggi. Chi se non noi, che siamo le figure genitoriali, non possiamo fargli fare questo passaggio? Le emozioni vanno provate, vanno definite, vanno descritte, vanno comprese, vanno capite, ma vanno accettate. No, ma tra l'altro lo stadio, la curva in particolare, nonostante i luoghi comuni, no, che imperversano, è un luogo accogliente in realtà. Tutti i padri che hanno figli, amici che li portano allo stadio mi confermano questa cosa. Ecco, io non ho l'abitudine personalmente di frequentare lo stadio, ma non perché abbia figlie femmine che pure vanno allo stadio, ma perché non ho la passione per il calcio. Ricordo però ancora quando mio padre mi ci portava, ecco, nel nostro caso era un luogo un po' meno accogliente perché mio padre mi portava nella curva del Verona e io tifavo Torino. Beh, Verona e Torino con noi di Firenze vanno d'accordo. C'è stato ad esempio il Torino a Firenze, sono squadre che sono gemellate, quindi mio figlio vedeva i torinesi con la maglia del Torino che giravano per Firenze, vedeva comunque un aspetto affettuoso. Io non credo che lo stadio sia pericoloso, credo che se si vuole il pericolo semmai è fuori, certo. Non è fuori dallo stadio, semmai che c'è qualche problema. Ferdinando, ti chiedo questo però, si va allo stadio con il proprio figlio e appunto partono i cori, partono le offese, partono gli insulti. Cioè, bisogna ignorare o bisogna prendere spunto da quello che sta accadendo per contestualizzare, per affrontare l'argomento con i propri figli, secondo te? No, assolutamente bisogna prendere spunto. Ora, il calcio in Italia è significativo, loro parlano con i loro amici, parlano di calcio continuamente, quindi va un po' valutato, giusto o sbagliato che sia. Quindi è i calciatori ora sono un po' dei nuovi, no, eroi per i nostri figli, quindi si può prendere spunto, anzi forse il calcio può essere un tramite giusto, un genitore gli può spiegare certi cori o certe situazioni nel modo più pacato possibile. Voglio dire, i nostri figli, dipende anche l'età che hanno, certo. Però anche se sono piccoli, 4, 5 anni, 6 anni, non hanno bisogno di tanta razionalità, hanno bisogno di una spiegazione emotiva, diciamo, con la cura, con l'ascolto, con il conforto che gli dai, e sono in grado di capire tutto. Non hanno bisogno di grandi informazioni, hanno bisogno di un padre che li avvolge con l'affetto e gli può spiegare praticamente tutto, anche le morti, voglio dire, di parenti, cioè sono situazioni che spesso è sbagliato non farle vivere ai figli. Tornando... sono piccolini, ma però sono in grado di gestire quello che dovranno poi gestire, perché le emozioni ci sono per tutti. Tornando allo stadio, tra le prescrizioni, i consigli che dai c'è anche quello di portate anche le mamme allo stadio. Sì, perché poi soprattutto per i figli maschi le mamme si trovano in una situazione spesso un pochino di disagio, nel senso che è una discussione che c'è spesso a pranzo, a cena, nella vita, con i figli, parlare di calcio. Spesso le mamme non sono tanto informate, allora è buffo come molte mamme si sentono escluse. Che magari sono molto ostili magari al calcio, poi a un certo punto invece se capiscono cominciano invece a informarsi. C'era la mamma di uno dei miei figli, appunto, giocava al Fantacalcio, giocava insieme a lui, poi alla fine lei era così ostile al calcio. Grazie davvero a Ferdinando Galassi, manuale di sopravvivenza per padri imperfetti, Franco Angeli. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Buona domenica. Una puntata dedicata alle parole difficili e ci facciamo aiutare anche da un maestro della letteratura per l'infanzia, poi il traffico e poi ancora qua con i Padri Eterni. È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili. Dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. Gianni Rodari. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con Padri Eterni. Un'altra parola che è molto echeggiata nella contemporaneità di questi giorni è stata molestie, no? Si è parlato tantissimo. Non so, tu per esempio hai tre bambine piccole, forse con quella più grandicella ti ha chiesto qualcosa? Allora, nel caso specifico no, nel senso che non ne ha sentito parlare, però io mi pongo già il problema, perché vedi, il punto è proprio che in questo paese il corpo delle donne è ancora un territorio su cui si giocano partite decisive e lo vediamo a tutti i livelli. Io penso sempre, per esempio, a questa semplice cosa, che quando si va a fare un colloquio di lavoro, per esempio, alle donne la prima domanda, se non è la prima e la seconda che gli rivolgono, è se intendono avere figli, quindi coinvolgendo il corpo proprio nella scelta, nell'opportunità lavorativa. A me non lo chiedono mai, e già questa è una molestia. E questo, guarda, proprio questa tua riflessione è stata anche l'input di un progetto bellissimo ideato da una coppia. Lei si chiama Marzia Messina, è italiana ma vive a Brooklyn insieme al compagno, che è un fotografo, si chiama Sham Hinchel, che hanno chiesto a 22 coppie di papà e figlie di parlare di donne, di parlare di femminismo, di parlare anche di rapporto con il proprio corpo, con le proprie aspirazioni, per capire quali fossero state poi le parole usate, i concetti su cui questa coppia, padre e figlia, insomma, dove ci sarebbe stato incontro o scontro. Hanno fatto video, hanno fatto fotografie, hanno fatto racconti ed è nato questo progetto molto intenso che si chiama They Are Daughters. Abbiamo intervistato Marzia per problemi di fuso orario, abbiamo dovuto registrare questa chiacchierata appunto perché adesso a Brooklyn era prestissimo, e questo è quello che ci ha raccontato. Still say a woman's place is in the kitchen. I've heard that. Yeah. I haven't heard it in a there long time. There are many more male chiefs than women in chefs, the world. Chefs, my love. Chef. Well, it looks like them. Mm-hmm. Well, chefs, but no women are chefs. Yes, but there are many a more. A lot. Buongiorno Marzia, benvenuta a Padri Eterni. Buongiorno. Allora, abbiamo ascoltato un po' di voci di papà e figlie. Da dove nasce l'idea di questo progetto? Allora, questo progetto nasce per... diciamo che nella mia vita ho sempre avuto delle conversazioni in famiglia, specialmente con mio padre, ed erano dei momenti bellissimi e lunghi, in genere dopo pranzo, ci fermavamo a chiacchierare di ogni argomento. E io ho voluto ricreare un po' quell'ambiente facendo incontrare padre e figlie e conversando su temi, diciamo, del femminismo, sui diritti e le pari opportunità e la tutela delle donne, e ho voluto vedere come se funzionava, appunto, quindi ricreare un momento che io ho vissuto intensamente nella mia vita. E io ho una figlia insieme a Sham, il mio compagno e fotografo del progetto, abbiamo una figlia di 10 anni, e tramite lei abbiamo invitato le sue compagne di classe a partecipare. E da lì, diciamo, poi il giro si è allargato ad altri genitori che hanno poi voluto partecipare a questo progetto. Chi ha avuto più difficoltà, i padri o le figlie, a parlare di femminismo? I padri, perché le figlie hanno dimostrato una enorme curiosità e attenzione rispetto alle parole dei loro genitori. È stato un momento molto bello e intimo, di conversazioni molto profonde, e i papà, diciamo, che erano un po' sorpresi dal loro ruolo in quel momento. Anche perché ci siamo resi conto che erano spesso la prima volta in cui i papà si sedevano con le loro figlie per parlare di certi temi. Quindi sì, i papà hanno dovuto sciogliere un po' più il ghiaccio, poi comunque sono entrati nel pieno della conversazione. Anche perché abbiamo usato lo stratagemma di un gioco, abbiamo inventato un gioco, quindi è stato un po' anche l'aspetto ludico a metterli a loro agio. Certo, ci sono stati dei argomenti o punti che ti hanno particolarmente sorpreso, oppure ci sono dei tabù, o ci sono argomenti che è stato più difficile toccare? Ma diciamo che noi l'abbiamo un po' pressati, perché con il fatto che abbiamo scritto queste domande, le abbiamo messe proprio in mano tramite queste carte, si sono trovati subito nel vivo della domanda, anche quando ha tirato fuori argomenti un po' più spinosi, che ne so, è venuto fuori l'aborto, e quindi un papà ha dovuto spiegare che cos'è l'aborto ad una figlia di 8 anni. Insomma, sono stati momenti un po' di non di tensione, però insomma si vedeva che non c'era proprio comodità a parlare di certi argomenti. Tutte le foto e anche i video si possono vedere nella pagina Facebook, vero? Ci vuoi ricordare l'indirizzo? La pagina Facebook si chiama Dear Daughters, dove noi mettiamo tutti i contenuti, i video, le interviste, le fotografie, tutto ciò che sta uscendo attraverso i media, quindi sì, teniamo informati attraverso questa pagina Facebook. Marzia, dopo queste 22 chiacchierate c'è un consiglio che ti piacerebbe dare ai papà? Sì, mi piacerebbe proprio installare il dialogo nelle famiglie. La responsabilità dei padri secondo me è grande, perché c'è bisogno di parlare di questi argomenti non solo tra donne, ma ci vuole insomma la partecipazione di tutti per andare verso un percorso più giusto e equo per tutti. Quindi sì, mi piacerebbe che questo dialogo si espanda, e questo noi stiamo anche cercando di farlo continuando questo progetto. Vogliamo fotografare altri padri e figlie. Complimenti, una bellissima idea e bellissime foto, come i nostri ascoltatori potranno vedere nella pagina Facebook. Grazie, ciao. Grazie. Ciao ciao. Grazie mille, arrivederci. I miei fratelli sono afrofieri, magreb e cinesi, filippini con i piedi quel sangue d'altri paesi, chi ha la madre che lavora nelle case di ignoranti, che abbandonano le loro sole in braccio alle badanti, gente stupida rimasta ancora al medioevo, li sveglio di notte, sono l'incubo dell'uomo nero, se il futuro è nostro lo vogliamo in esclusiva, stanchi di elemosinare i diritti e metterci in fila, da Palermo a Torino scoppierà un casino, se l'Europa è un'altra storia, se Roma non è Berlino, è la paura di qualcosa che ormai vive qua vicino, non ti salverà in padano, non esiste in nessun libro, non sono un G2 italiano col trattino, una Fiat Uno col bazooka sul tettino, è la storia di un normale cittadino impazzito, era clandestino, adesso è un assassino. Questa è Use Music, Use Music, hey. Questa è Use Music, Use Music, hey. Questa è Use Music, Use Music, hey. Puntata dedicata alle parole difficili, agli argomenti difficili in cui noi padri ci troviamo, per domande che i nostri figli ci fanno, domande che i nostri figli ci portano a casa. E quante risposte ancora non ho, ha scritto il prossimo ospite, quando suo figlio la prima volta è arrivato a casa e ha detto: mi hanno chiamato negro de merda. Cosa significa? Diamo il benvenuto allo sceneggiatore e drammaturgo Massimo Bavastro, autore del libro Il bambino promesso, edito da Nutrimenti. Ciao Massimo. Buongiorno. Buongiorno a te. Massimo. Allora, hai raccontato sul foglio, mi pare, appunto questo aneddoto, questo evento, no? Che è stato una sorta di cambio di rotta, ti ha aperto un oblò che non avevi ancora esplorato. Cos'è successo quella mattina? In effetti un bambino che arriva a casa e chiede che cosa vuol dire negro de merda, ti fa una domanda da 10 milioni di dollari, e il fatto che sia qua a parlare non in un'isola caraibica con quei 10 milioni di dollari fa capire che la risposta in realtà non l'ho trovata, non è una risposta. Probabilmente c'è una risposta, anzi, ma sarebbe una risposta molto articolata. La domanda me la sono fatta io: quante cose bisogna spiegare a un bambino di 7 anni per potergli spiegare che cosa significa negro de merda? Da dove devo partire? Quale percorso storico devo fare per riuscire a farlo arrivare fino al senso di quella domanda così assurda? È una domanda assurda, ma quanta storia c'è dietro quella assurdità? E quindi è una domanda dalla quale ho provato alla quale ho provato a girare intorno, allontanandomene un po', perché a mano che parlavo con lui mi dicevo che forse non era arrivato ancora il momento di tirarlo fuori da quello stato di inconsapevolezza nel quale vive, circondato da 300 bambini che sono i suoi compagni di scuola, i suoi compagni del parco, per i quali apparentemente non c'è nessuna differenza, diciamo, tra il fatto che lui abbia la pelle marrone e il fatto che la sua migliore amica abbia i capelli rossi. Quindi quello che mi sono detto è che forse una risposta era non avere troppa fretta di rispondere. Ci sono cose che forse sì, che è un modo per prendere un po', forse prendere tempo, prendere la distanza, proteggere anche, no? Aspettando che ci sia, sì, il momento giusto. Io vedo che appunto ci sono altre coppie che hanno adottato bambini, che vengono seguite da psicologi, e la mia sensazione è che a volte anche gli psicologi cerchino di mettere una specie di fretta per affrontare tutti gli argomenti e affrontarli più presto possibile. Insomma, dare tutte quelle spiegazioni a mio figlio significava comunque andare da un'altra parte, mettergli l'elmetto, la corazza, in qualche modo indurlo da quel momento a guardare con sospetto, no? Il resto del mondo, a stare in uno stato di allarme che lui in nessun modo adesso vive. E ho pensato che fosse un episodio che forse insomma era accaduto fuori casa, lontano dal quartiere, e che magari non si sarebbe verificato più per qualche tempo. Allora lasciare che quell'insulto fosse così assorbito dentro gli altri insulti che quel mattino gli avevano rivolto, forse era la cosa migliore. Detto questo, io so che, cioè, penso che alle domande si debba rispondere, a tutte le domande, perché poi la cosa che veramente fa male, che ferisce e che crea molta ansia è quando alle domande non si dà risposta, sì, no? Certo. Perché quello che sappiamo lo possiamo gestire, quello che non sappiamo ci autorizza a fare delle fantasie che spesso sono più nocive della realtà. Quindi so che quando il momento arriverà e insieme sentiremo che questo momento è arrivato, le risposte dovranno arrivare. Massimo, io penso che quando tuo figlio sarà un po' più grande, forse una risposta adeguata potrebbe essere dirgli che ci sono dei genitori de merda, perché queste espressioni i bambini non le hanno, le sentono in casa, i bambini non le vedono queste differenze. Mia figlia, l'unica volta che è stata costretta a spiegarmi chi fosse il suo compagno di colore, mi ha detto: è quello con la giacchetta viola, cioè, non le vedono. Tra l'altro, vedi, tu citavi, se non capisco male, giustamente tuo figlio è un figlio adottivo, no? E quindi quando accadono questi episodi si aggiunge in un certo senso discriminazione a discriminazione. Io, scusami, è un tema che ho molto a cuore, questo dell'adozione, perché nel nostro paese le famiglie adottive vengono viste quasi sempre come famiglie di serie B. Io ricordo un noto politico un anno e mezzo fa, di cui non farò il nome, ma che è governatore della Lombardia, che dichiarò che intendeva escludere i bimbi adottivi e le loro famiglie dal bonus bebè previsto dalla regione. Poi non so se questa dichiarazione abbia avuto seguito o se sia rimasta solo tale, perché, diceva questo politico, il bonus è solo per chi nasce. Ecco, quest'idea che invece i bimbi adottivi no, siano già nati e quindi non, come dire, non abbiano diritto a questo, è una cosa inconcepibile. Cioè, forse sarebbe ora che qualcuno spiegasse che un bambino adottivo nasce una seconda volta all'interno di una famiglia, di più, la fa proprio nascere, e che non esistono bambini più voluti, più amati, più accolti dei figli adottivi e che arrivano con più difficoltà. Il bonus dovrebbero darvelo triplo. Il bambino promesso è il titolo del libro in cui Massimo racconta l'avventura dell'adozione. Massimo, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Un'ultima domanda: so che molte domande difficili le fai a Siri, vero, per vedere cosa ti risponde? È un gioco che fai sì, in quel momento diciamo così sconcerto, diciamo dopo che Tom mi aveva fatto quella domanda, ho pensato a qualcuno che le risposte le sapeva tutte, quindi siamo messi qualche minuto dopo davanti a Siri, che avevamo scoperto qualche tempo prima, le abbiamo fatto un po' di domande, e a un certo punto c'è stata una domanda, Tom mi ha chiesto, se non sbaglio, credi in Dio? E Siri ha avuto un attimo di smarrimento, ha detto che le discussioni teologiche preferiva non farle. Allora abbiamo avuto tutti questa consolazione, che non tutti, neanche Siri, hanno tutte le risposte. Massimo Bovastro, grazie davvero, ciao, buona domenica. Grazie. Ciao, allora, Massimo. Ci fermiamo, Padri Eterni, la pubblicità, poi ancora qua in diretta. La natura di prima mano vi presenta Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Questo è Padri Eterni. Ci trovate sul sito radio24.it e ci trovate all'indirizzo padrieterni@radio24.it. Se volete segnalarci iniziative, eventi, idee, progetti, critiche, suggerimenti. Siamo lì oppure nella nostra pagina I Padri Eterni, la pagina ufficiale su Facebook. Oggi parliamo di cose difficili, ma prima l'appuntamento con il super papà. Abbiamo anche la sigla dedicata a questa rubrica. Mannaggia, cercavamo un pretesto per avere questa canzone che ci accompagna. Comincia a piovere. Gianni Morandi. I miei figli mi dicono: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello. Piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati. Che si fa? Chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali. La teniamo di sottofondo ogni settimana, diciamo sei forte papà, a un papà particolare, nostro super papà. Matteo, chi abbiamo scelto questa settimana? Ma guarda, io credo che questa settimana Gianni Morandi sarebbe fiero di aver fatto da sigla o da copertina per il papà di oggi. Il papà che abbiamo scelto è papà Fabio, che è il papà di Elisa, che ha scritto un appello disperato, ahimè, su Facebook, rendendo pubblica la malattia della figlia. Elisa ha 3 anni e ha un male terribile, la leucemia, e come se non bastasse, Elisa l'ha contratta in una forma molto rara. La bambina è originaria di Pordenone e si trova da 2 mesi ricoverata in un ospedale a Roma. E per salvarle la vita ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. La cosa buona, la cosa straordinaria che ha fatto questo padre è che ha dimostrato che i social possono essere usati anche in maniera buona, contrariamente a tutti i pregiudizi di cui godono. Ha scritto questo appello, ha aperto una pagina, Salviamo Elisa, sulla quale potete andare, e soprattutto ha portato alla conoscenza di tutti che, contrariamente a quanto magari molte persone credono, chiunque può essere donatore di midollo osseo, nel senso che la compatibilità non è data dalla parentela. Il problema di Elisa è proprio che, non avendo fratelli, non ha modo di avere compatibilità dirette. Quindi chiunque voglia sottoporsi a un test di compatibilità può mettersi in contatto con la sede più vicina dell'ADMO, l'Associazione Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo, e provare a fare qualcosa. Ecco, adesso la situazione per Elisa sembra, insomma, ci sono stati i primi riscontri, ma è molto lontana dall'essere risolta. Insomma, questo è il nostro in bocca al lupo ad Elisa. Buongiorno a te che c'è la faccia pulita, che nella tua vita non hai visto mai una salita, e la prima che incontri sarà tutto più chiaro. A volte esiste il dolce, a volte esiste l'amaro. Pesa la solitudine dei numeri primi, sì, ma la rabbia dei secondi anche peggio. Ci ho fatto l'abitudine, ora sorridimi. Siamo così in basso che non può andare peggio. Buongiorno a te, a te, a te, numero uno. Vorrei fare i conti con la rabbia dei secondi. Ci siamo fatti aiutare da questo brano di Coez, La rabbia dei secondi, per introdurre il prossimo ospite, un narratore, direi è il narratore, nella sua carriera non ha mai avuto paura di affrontare temi ostici, temi complicati, quindi in questa puntata in cui parliamo di padri e figli e argomenti spinosi, però da affrontare con le parole giuste, ci sembrava la giusta persona. È in teatro, in questo periodo, con un nuovo spettacolo, Le avventure di numero primo, e fino a stasera al Teatro Goldoni di Venezia, poi Varese 17-18 novembre, poi ancora Padova, Milano, una lunga tournée, iolefilm.com per avere tutte le informazioni. Lo spettacolo, che è anche un libro, si intitola Le avventure di numero primo. Diamo il benvenuto a Marco Paolini. Ciao Marco. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Marco. Numero primo, che di fatto è la storia di una strana paternità, di una strana coppia, di uno strano padre, di uno strano figlio. Chi è questo numero primo, Marco? È il prossimo figlio che ci assomiglia poco. Forse assomiglia a noi meno di quanto noi assomigliamo ai pitecantropi. Ma è un fantasy quello che hai scritto, un viaggio nella fantasia, un viaggio nel fantastico, un viaggio nella contemporaneità? Ho immaginato e ho usato l'immaginazione al posto della memoria, scardinando la mia credibilità di narratore di cose vere, per inventarne una insieme a Gianfranco Bettin. Però basandoci su quelle che erano le nostre passioni condivise di letteratura di divulgazione scientifica, qualche cosa che negli ultimi anni, almeno per me e anche per lui, ha avuto un allargamento, perché ci siamo più o meno resi conto che un conto è studiare le scoperte e la ricerca scientifica, un conto è studiare il percorso della tecnologia. Le due cose non coincidono, la seconda è un po' più pervasiva, entra anche nella testa di noi ignoranti in maniera prepotente. Quindi, al di là di tutti i nostri pensieri e il disagio di accorgersi di non essere sempre noi a governare il modo in cui cambiamo, ho pensato che non avevo voglia di spiegare, avevo voglia di inventare, di raccontare una storia che contenesse un po' di questi pensieri, e il rapporto padre-figlio è il centro. Sì, questo aiuta. Prima, parlando con Massimo Bavastro, ci diceva che un gioco che fa con suo figlio è quello di fare domande a Siri, all'intelligenza artificiale, per vedere se ci sono tutte le risposte. Ti spaventa questa idea dell'intelligenza artificiale? Ma l'intelligenza artificiale è una specie di golem che da almeno due secoli, no? Da Frankenstein, ogni tanto ritorna in varie forme. Io credo che noi ce l'abbiamo già, si chiama internet, anche se è molto intelligente, il fatto che ognuno di noi si porta dietro un pezzetto del suo corpo dentro il telefono, visto che ci sta familiarizzando con l'averci a che fare. È difficile che si materializzi un'intelligenza artificiale davvero una singolarità con un corpo e una indipendenza dalla rete, no? Sarebbe comunque un cervello piccolino per quanto sviluppato. Quindi noi la stiamo già coltivando questa cosa, con tutti i nostri incubi di chi li ha e di chi se li fa raccontare dal cinema, cioè del fatto che questa intelligenza artificiale diventi fuori controllo. Ma la realtà più prossima a noi credo sia quella in cui siamo noi sedotti dalla prospettiva di farci fare un aiutino che attraverso innesti diventiamo cyborg in qualche modo, non più solo quando usiamo la protesi che ognuno di noi infila nella fondina e tira fuori come una Colt, in fondo siamo tutti cowboys, no? Nessuno di noi esce di casa senza lo smartphone, però il passo successivo è quello che anche mentre si dorme si resta connessi, grazie appunto a qualche dispositivo di plasticità cerebrale, cose del genere. E siccome diventeranno cool di queste cose, noi credo le faremo senza molto pensarci. All'inizio sembrerà strano, e poi quando inizi non ti fermi, perché la tecnologia è pervasiva. Quando inizi poi fai gli aggiornamenti. Paolini, senta, a parte che io dichiaro, insomma, pubblicamente sono molto felice di parlare con lei, perché ci sono degli artisti che in tutti i campi riportano, come dire, al senso originario della disciplina che praticano, e lei per me è uno di questi. Detto ciò, io avevo una curiosità, cioè alla fine, no, numero primo è un bambino adottato, è Ettore si ritrova a diventare padre senza averne avuto desiderio, no? Se lo ritrova e poi lo accetta e scopre nella sua paternità un'opportunità. E vorrei chiederle, secondo lei, posto che nella vita non è mica indispensabile diventare genitori, non è mica obbligatorio, ma perché le donne nel nostro paese vengono educate e incoraggiate in un certo senso alla maternità? Perché invece noi maschi veniamo educati quasi fin da piccoli, quasi a doverci difendere dall'idea di una possibile paternità? Hai che domanda da 100 pistole. No, non mi azzardo a dare di quelle spiegazioni di chi ha studiato la cosa. No, io posso dire semplicemente che anch'io sono stato reticente nella mia vita a diventare padre, e ho immaginato un personaggio che mi assomigliasse un po', che in fondo ha trovato soddisfazione in ciò che faceva e non sentiva la necessità di fare questo. Però, come tutti coloro che insomma non riescono a a farsi sorprendere dalla vita, perché cercano di organizzarla, perché sono i pianificatori, perché sono i registi della propria vita. Se per una volta smettiamo di fare i registi della nostra vita e ci lasciamo sorprendere come dovrebbero fare gli attori, ecco che reagendo all'imprevisto si scopre qualcosa a cui non si era dato lo stesso peso, immaginandolo, prevedendolo, progettandolo. Certo. Credo che la paternità in un certo senso non sia qualcosa che si impara, ma qualcosa che succede, come il linguaggio, come diceva Noam Chomsky, diceva ai bambini imparare a parlare non è qualcosa che, cioè a parlare non è qualcosa che si impara, è qualcosa che succede. Credo che con la paternità, cioè, i padri possono anche prepararsi e fare un corso, ma sono comunque impreparati, sì. Però da quel momento in poi non puoi smettere, indipendentemente dal training che hai fatto, quando inizi quella cosa ti continua, ed è questo che fa paura, no? La continuità. E in realtà nella continuità c'è un segreto, tocca diventare adulti. Esatto, è quello che ci viene chiesto di fare quotidianamente dai nostri figli. Grazie davvero a Marco Paolini, ricordiamo iolefilme.com il sito per tutte le informazioni sullo spettacolo Le avventure di Numero Prime, ricordiamo anche il libro pubblicato da Einaudi insieme a Gianfranco Bettin. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Una manciata di minuti ancora in questa puntata di Padri Eterni, e ce li giochiamo andando in viaggio con papà. In viaggio con papà era il titolo di una chiacchierata incontro spettacolo ieri a Mantova all'interno di Seni, il festival di teatro e arte per le nuove generazioni, senidinfanzia.org per tutte le informazioni. Protagonista Fabio Pasini. Fabio Pasini è sciatore, canoista, viaggiatore, ipercinetico per natura e per scelta, che ha scelto di condividere parte di queste avventure insieme ai figli, ed è diventato appunto un papà viaggiatore. Ciao Fabio, benvenuto a Padri Eterni. Ciao, buongiorno a tutti. Da buon padre viaggiatore, so che sei in aeroporto, in partenza per il Giappone, quindi... Mi si è aperto il gate in questo momento, sono qua con Brenno, destinazione finale Tokyo. Perfetto. Cosa vuol dire andare in viaggio con papà, quando papà appunto è Fabio Pasini? Cosa fai fare ai tuoi figli? No, diciamo che la descrizione che hai fatto si riferiva a un mio vecchio curriculum che avevo scritto sul libro una decina di anni fa. Ho abbandonato un po' quegli spazi e sto cercando di riviverli un po' in parte con i miei figli. Uh-huh. E significa rivivere avventure che tu già hai vissuto? No, diciamo che quello che voglio andare a rivivere sono questi spazi che sono molto spesso sono spazi remoti, non c'è niente di sportivo e performante, però è una sensazione del viaggio che è fondamentale. Fondamentalmente viaggiare significa spostare un confine ed aprirsi agli altri. Uh-huh. E nell'incontro di ieri cosa hai raccontato? Ma ho raccontato questa esperienza che ho fatto con l'ultima primavera con Brenno, mentre invece un paio di anni fa l'avevo fatto con il figlio maggiore, con Zeno. Con Zeno avevamo fatto il trekking del sentiero delle acque calde, invece con Brenno abbiamo fatto un giro misto un po' per tutta l'Islanda. E in questi viaggi con i figli ci si ritrova con figli anche diversi, perché esci dalle dinamiche familiari e ti ritrovi molto spesso, anche se sono piccolini, dei compagni di viaggio che amano l'avventura e non fanno i capricci, perché all'avventura non piacciono i capricci. Fabio, no, la cosa che mi piace di questa avventura che tu proponi è che poi in realtà tu proponi di scoprire insieme ai tuoi figli che fra viaggio e turismo c'è una bella differenza, no? Perché alla fine il turismo è un viaggio organizzato, è il viaggio vero o no? E mi pare in un certo senso questa cosa una metafora perfetta di quello che è la paternità stessa. Sì, è vero. E poi oggi questo qua, non lo so, mi fa molto piacere che tu abbia colto questo, e non so se si possa estendere come l'hai detto tu, però io lo vedo proprio in quei termini, come il viaggio, un viaggio di scoperta vero, scoperta dell'altro, e questo altro è il tutto che ci circonda. E poi sono quelle situazioni in cui veramente hai mille occasioni. Oggi parliamo dell'affrontare temi difficili con i figli, no? Lì, cioè, le occasioni si moltiplicano, forse, di toccare anche argomenti che nella quotidianità non hai il tempo, non hai il contesto giusto, non hai l'energia forse per sfiorarli. Assolutamente, come ti dicevo prima, cambia completamente il rapporto. Io ho dei bambini normalissimi, ho un adolescente normalissimo, e hanno nelle dinamiche familiari i comportamenti dei bambini, dei ragazzi della loro età. Quando si viaggia, quando si vive questo tipo di viaggio, cambiano completamente le dinamiche. Io non ho mai trovato un bambino che abbia fatto un capriccio mentre eravamo in viaggio in due. Grazie davvero Fabio, ricordiamo fabiopasini.com è il sito per tutte le informazioni, per avere anche ispirazione per come viaggiare con papà. Ciao Fabio, grazie. Grazie a tutti. Ciao Fabio. Buona giornata. Ciao. E noi andiamo a chiudere questa puntata, un grazie ad Andrea Roccabella, oggi alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza, Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata, radio24.it come sempre per scaricare il podcast e tutte le coordinate per contattarci già le conoscete, l'appuntamento è a domenica prossima sempre alle 11, adesso è il momento della lettera, vero Matteo? Sì, assolutamente, questa settimana ci siamo permessi di scrivere una lettera alla ministra Fedeli. Attenzione! Lettera aperta alla ministra Fedeli. Cara ministra Fedeli, nelle ultime settimane è scoppiata la polemica riguardo alle nuove direttive scolastiche che prevedono che i figli non possano tornare da scuola da soli fino al termine della terza media. Senza fare il vecchio che rimpiange i tempi andati, quelli in cui si andava e tornava da scuola a piedi già a 8 anni, quelli in cui gli inciampi facevano parte dei nostri percorsi, mi limito a rammentarle una cosa. Come lei ben sa, la parola educazione deriva dal latino educere, che significa tirare fuori. Sempre più spesso, invece, noi educatori, in qualità di insegnanti, genitori o entrambe le cose, sembriamo voler tenere i nostri figli chiusi dentro, all'ombra delle nostre paure, protetti da pericoli che sono, forse, tali solo per noi, mentre per loro sono solo ostriche all'interno delle quali può crescere la perla della responsabilità. Farli diventare responsabili vuol dire aiutarli a sviluppare la capacità di rispondere per sé. Facciamogli dunque più spesso domande, se vogliamo avere risposte. Noi interrogheremo i nostri figli e voi i vostri studenti, tenendo conto che sono gli stessi bambini. Chiediamogli cosa vogliono per la loro vita e non meravigliamoci quando ci diranno: chi ci permettiate di viverla, perché la vita è nostra.